Ogni pagina delle Divine Scritture è utile per insegnare e formare l'uomo perfetto secondo Gesù Cristo. Questo lo ripete Paolo al suo discepolo Timoteo. E noi lo sperimentiamo, che ogni parola, ogni pagina del Vangelo, delle Scritture, ha qualcosa da insegnarci se siamo discepoli attenti. Solo che alcune pagine sono facili, sono grandiose. Altre pagine sembrerebbero, chiamiamole minori. Io oggi ve ne voglio parlare di una di queste, perché ricorre nel Vangelo di oggi. Luca capitolo 9, versetti dal 7 all'11, troviamo scritto queste parole. Al loro ritorno, gli apostoli erano stati mandati in missione a predicare, al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Può sembrare una frasetta da niente. Io in questa frase trovo un grandissimo insegnamento che esprimo in un avverbo: condividere. Condividere le cose belle che tu hai vissuto, che tu hai fatto. Questa è una regola del buon vivere, sia umano sia cristiano. Quante volte nelle nostre famiglie non c'è condivisione e questo suscita mutismo, malumore. I figli, che se il papà e la mamma gli chiedono come è andata a scuola, bene, sì, ma di qualcosa, uffa. Tu prova a chiedere a una figlia di 15-16 anni come va la sua vita. Ma tante volte che la mamma si lamenta del papà che torna a casa dal lavoro, e sei muto, accendi la televisione, sei lì a guardare. Oppure il papà si lamenta, parlo di casi che ho constatato, cui la mamma gli rovescia addosso tutte le preoccupazioni della giornata senza condividere nulla però. Sembrerebbe quasi un gossip familiare. E anche nella vita siamo frastornati da mille cose che ti vien voglia a un certo punto di isolarti. Vedo gente in casa, entri a trovarle, sta andando la televisione e dici: scusi, possiamo spegnerla? Ah, non mi ero neanche accorta che era accesa. Perché uno mette la sordina, va avanti così. Non sappiamo ascoltare perché non sappiamo condividere. Due innamorati invece non finirebbero di stare insieme. Dice: ma è l'ora di tornare? Ma cosa ti... ci siamo parlati. Se questo vale umanamente, amici, questo vale anche cristianamente ed evangelicamente. Se noi abbiamo i Vangeli, è perché qualcuno che ha ascoltato gli apostoli, la Madonna, hanno condiviso. Se noi abbiamo il Magnificat, è perché la Madonna ce l'ha raccontato. Se noi possiamo leggere delle pagine meravigliose, abbiamo appena festeggiato Agostino, alcune pagine meravigliose delle confessioni di Sant'Agostino, è perché lui le ha dette. Confessione vuol dire racconto autobiografico. E i migliori libri dei santi sono le autobiografie, in cui uno si dona, si racconta, e noi amici siamo capaci di raccontarci le cose belle? Io ho tanti corrispondenti su WhatsApp, ai quali dono io lo chiamo il mio latte, cioè io mangio la parola di Dio, poi la dono, anche questa predica la sto registrando perché poi la dono agli altri. Se sapeste con che fatica la gente ti risponde, al massimo ti manda una vignetta, ma dico, ma no, ma dimmi una tua reazione, dimmi una tua eco, ma ho paura di disturbare. Ma se non c'è tra cristiani questa condivisione dal profondo del cuore, la fede non andrà mai avanti. Se in casa, oltre a raccontarci la giornata, siamo capaci di raccontarci la nostra fede, i figli imparano. Se in casa invece si dice solo vai a messa, sei confessato, non dire parolacce, non fare... Sì, si impara la buona educazione, ma non si impara la fede. Certamente vi sarà capitato qualche volta in cui il papà, la mamma o il figlio, in vena di confidenze, ha raccontato qualcosa di bello e tutti hanno fatto silenzio per sentire, perché tu avvertivi che in quel momento questa persona ti dava qualcosa di suo. Amici, questo dobbiamo fare. Perdonate se cito me stesso, ma è come un maestro che cita il suo esempio. Io non vi racconto. A quel tempo avvenne che Gesù fece, disse, cari fratelli, vi voglio dire... Io vi dico la predica come io l'ho mangiata e come ve la trasmetto. Vi do del mio. Quando tu mi racconterai del tuo, sarà un grande giorno. Quante confessioni fatte con lo stampino, pam pam pam, la stessa confessione da 20 anni. Ma possibile che la tua vita non cambi? No, grazie a Dio se non fai peccati nuovi, grazie a Dio. Ma cresci nel conoscere la parola di Dio? Il tuo rapporto con Gesù qual è? Quante volte io ho spiazzato della gente, che, soprattutto giovani, che sono venuti a confessarsi, ma non so che cosa dire. Io gli chiedo, ma tu credi in Gesù? Sì. Bene. Quel Gesù in cui tu credi, lo conosci? Ma... penso di sì. Bene. Quel Gesù in cui tu dici di credere, che dici che pensi di conoscere, quel Gesù tu lo ami? E di solito ho il silenzio. Questa condivisione, amici, il tuo rapporto con Gesù, così trasmetterai la fede in casa tua. Io incontro gente, soprattutto uomini, che vanno per esempio a Medjugorje e mi tornano a casa convertiti. Amici, io ho voglia di sentire esperienze, non chiacchiere. Tu che mi racconti la tua vita, sai, io ho fatto il chierichetto, andavo all'oratorio, poi ho abbandonato tutto, sono andato a lavorare. 5 anni fa mia mamma voleva andare a Medjugorje, io l'ho accompagnata, ho detto però io sto in albergo, io non faccio tutte le storie che fate voi. Poi sono saliti sulla collina delle apparizioni e io così mi sono accodato. Come sono arrivato su, dice, mi è venuta una voglia di piangere. Mi sono inginocchiato e sono stato lì non so quanto tempo a piangere, ma un pianto dolce, un pianto che mi veniva su dal cuore. E questo l'ho rifatto anche i giorni seguenti. Sono tornato a casa, è uno che lavora da metalmeccanico questo, eh? E io l'ho raccontato ai miei amici. Che bello, dicevo. Chi racconterà mai la fede in quella fabbrica lì? Il prete, ma neanche ci entra. Chi la racconta? Questi, allora, al loro ritorno, gli apostoli raccontarono tutto quello che avevano vissuto. Io mi fermo qui, questo era solo il primo dei tre punti di questa predica. Gli altri avremo tempo in seguito di raccontarci e di donarci queste cose. Coraggio, amici, io vi aspetto, se non su WhatsApp, almeno di persona, se non nella confessione, almeno. Io sono qui tutti i sabati pomeriggio in chiesa, dalle 2:30 alle 5 ad aspettare la gente. In genere arriva quasi nessuno. Io faccio compagnia a Gesù. E quando arriva qualcuno, c'ha tutto il tempo per raccontare quello che ha dentro il cuore, amici. Se non diciamo quello che ci attraversa il cuore, non c'è la fede. C'è la religione, che è un'altra cosa.